Radio Popolare presenta La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buongiorno. Il programma prevede di parlare del problema della restituzione del tesoro di Priamo, di delitti in sagrestia, di libri economici, nonché di messaggi dall'aldilà di se stessi.